Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa Idee anticrisi. Questa è una puntata speciale dedicata alla 49esima edizione di SMAU e al premio Lamarck dal nome del famoso evoluzionista francese di fine Settecento, premio realizzato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria in collaborazione con la community Startup Business, che ha premiato le 7 più innovative startup italiane e oggi le abbiamo con noi. Sono riconoscimenti delle grandi multinazionali di vario tipo. Partiamo dai $60,000 in servizi cloud su piattaforma Microsoft Biz Park Plus, che si sono aggiudicati i fondatori di 012 SRL, startup di Cittadella e in provincia di Padova, per il loro prodotto Drive Farm, un file server basato sulla nuvola con cui piccole e medie imprese possono gestire online tutto il proprio patrimonio documentale. Stefano Dindo spiega come è nata l'idea. L'idea praticamente è nata più di un anno fa, quando nell'ambiente lavorativo dove ero assunto in precedenza si è sostanzialmente rotto il personal computer perdendo tutti i dati. L'idea di salvare tutti i dati, come si chiama, che cos'è? Si chiama Drive Farm, permette di ricreare su cloud l'organizzazione aziendale, quindi con il manager, i vari gruppi di lavoro e la profilazione degli utenti. Ogni utente avrà poi il proprio spazio dove salvare e sincronizzare i propri dati sul cloud, in modo tale da renderli sicuri e non perderli se succedono situazioni di imprevisto. Quanto risparmiano le aziende? Risparmiano notevolmente, perché il servizio parte da un prezzo di €3,99, quindi molto basso, considerando che per acquistare un server dove conservare le informazioni di solito si parla di qualche migliaia di euro. Chi ha aiutato voi e come? Abbiamo pensato di costituire la società 012. Siamo stati aiutati da due realtà aziendali: Allos, che è una società che ormai da più di 30 anni si occupa di e-learning, quindi formazione a distanza per le aziende, e Nextep, che è una società che si occupa di realizzare delle piattaforme di comunicazione per favorire la comunicazione tra le persone all'interno dell'azienda. Abbiamo avuto modo di incontrare anche Startup Business, abbiamo colto la loro opportunità di partecipare al percorso innovazione all'interno dello SMAU. Un altro progetto vincitore, Kent Strapper di Firenze, si inserisce nel filone dei makers, gli artigiani digitali di cui tanto si parla negli ultimi tempi. Questi startuppari fiorentini hanno vinto infatti proponendo un modello di stampante 3D ideale per creare velocemente dei prototipi di prodotti da manifatturare poi su larga scala. Kent Strapper ha vinto un anno di incubazione presso PolyHub, il nuovo incubatore del Politecnico di Milano pensato proprio per le startup. Lorenzo Campini, dal cui soprannome Kent deriva il nome dell'azienda. Noi siamo partiti nel 2010 realizzando, cioè autocostruendoci, un pantografo per fare piccole incisioni e scritte. Da lì l'idea di utilizzare una pistola per la colla a caldo per poter estrudere appunto della colla e quindi depositarla per fare oggettini, diciamo qualcosa, perché in realtà i risultati non erano molto belli da vedere. Avete iniziato da un esperimento. Che cosa fa questa stampante in 3D, tre dimensioni, con tecnologia Fused Filament Fabrication? Nome difficile per fare cosa? Praticamente scioglie questo filo di plastica e lo deposita strato su strato fino a formare un oggetto. E nel senso, se voi ipotizzate di prendere un ananas e di dividerla a fette, poi la macchina non fa altro che ricostruire l'ananas mettendo una fetta sopra un'altra fetta. Qual è appunto il modello di business per vendere? Uno, rivolgersi soprattutto al privato, nel senso che abbiamo sviluppato un kit di stampante tridimensionale ad un prezzo contenuto che quindi è accessibile a tutti praticamente. Dall'altro lato invece stiamo portando avanti un progetto per divulgare l'utilizzo della stampa tridimensionale all'interno della scuola, quindi all'interno del mondo didattico. 3 giorni di coaching messi a disposizione dagli esperti di HP, Hewlett Packard, e vinti da SeaBreath, un sistema modulare per ricavare energia dalle onde, un'opera di un'azienda di Parma. Luigi Rubino spiega l'idea del pontile che cattura l'energia pulita del mare. Anni che penso su un possibile sistema per sfruttare l'energia dalle onde. Così alla fine sono arrivato all'idea che è coperta da brevetto, sfruttando quella che viene chiamata la colonna d'acqua oscillante, con un sistema di camere collegate. Energia dal mare, ma è anche un'idea che è anticrisi. Chi vi ha aiutato e come avete potuto realizzare questa impresa? L'idea è anche quella di utilizzare materiali di riciclo, come container riciclati, quindi abbattendo notevolmente i costi. I soldi da dove sono arrivati? Sono arrivati dai risparmi. Adesso invece che cominceranno le spese vere e proprie, che sono quelle per mettere in acqua un dispositivo in scala 1-1, stiamo cercando un finanziatore. Siete ovviamente una startup. In quanto tempo contate di portare a termine la vostra idea? In presenza di capitali, perché abbiamo bisogno di quello. In un anno dovremmo terminare il dispositivo e metterlo in acqua. Periodo di 2 anni dovremmo essere sul mercato. IBM ha premiato MeTail di Foggia, un sito che è un incrocio fra un social network letterario e un sistema di creazione e autopubblicazione collettiva di opere e storie. Ai fondatori è stato concesso l'accesso gratuito al prestigioso Global Entrepreneurs Program di Big Blue, un percorso di formazione per imprenditori il cui valore si aggira intorno ai $60,000. Fabio Biccari ne racconta la storia. È nato proprio considerando che siamo amici ormai da anni, io, Christian e Omar, avevamo pensato perché non fare qualcosa per rilanciare gli artisti, tra virgolette. È nata questa idea di fare un portale che doveva essere una radio, che aveva dei costi molto elevati, e quindi si è pensato perché non creiamo qualcosa che aiuti tutti gli artisti. Libera arte in libero mondo e questa concretizzazione di questa idea, che cosa vi ha portato a fare? Cosa particolare quando siamo partiti per realizzare questo prodotto è stato perché non avevamo una lira bucata, naturalmente, ognuno aveva il proprio lavoro, quindi dovevamo capire come recuperare fondi, quindi offriamo dei servizi testuali ai vari operatori e poi quindi abbiamo trovato quel paio di clienti che ci supportasse in questo periodo. Tutto quello che abbiamo ricavato l'abbiamo reinvestito per realizzare il portale. Oltre a quello che avete fatto voi, interessa anche capire che cosa hanno fatto altri per voi. Un esempio è Emil di Startup Business, che ci ha concesso ad esempio di andare allo SMAU, prima allo SMAU di Bari, dopo siamo stati allo SMAU di Milano. Altri, ad esempio, noi siamo stati al Salone del Libro di Torino, c'è un'area incubatore, prende le nuove case editrici. Laura Sapiens di Mantova, vincitore del premio Dell, è un'impresa nata per migliorare la relazione tra le persone e i sistemi informatici su scala mondiale. Fondata nel 2011, la società è produttrice di Ego Smart House, il primo dispositivo di interazione personale al mondo che permette di trasferire i file da un computer all'altro con un lieve gesto di polso. Matteo Modè spiega l'illuminazione. In particolare ero all'università nel 2008 e stavo osservando il mio professore che teneva appunto la lezione utilizzando uno schermo touch e un pennino, e da lì è nata questa idea. Ho fatto delle ricerche e da lì è partito tutto. L'idea fondamentale è questa: fino adesso siamo stati abituati ad avere a che fare con delle periferiche per i computer, quindi degli oggetti vincolati ai sistemi che stiamo utilizzando. La periferica può essere un mouse, una tastiera, una chiavetta USB. Noi abbiamo pensato di mettere tutto questo in un unico dispositivo facile da collegare e abbiamo chiamato questo dispositivo Smart Mouse. Permette di collegarsi ad uno schermo semplicemente fotografandolo. È un mouse da tavolo, è anche un mouse aereo, quindi riusciamo a interagire muovendolo nello spazio, nell'aria. È una memoria wireless, ci permette addirittura di memorizzare file con un semplice gesto, è sufficiente puntare un documento di Word, una presentazione, e con un lieve gesto di polso memorizzarlo nel dispositivo o trasferirlo col gesto opposto. Voi vi siete avvalsi di che cosa? Competenze, squadra, business angels, venture capitalist, che cos'è stato quello che vi ha fatto fare la svolta? Innanzitutto siamo un team di qualità. Siamo tutte persone molto preparate con delle esperienze importanti. Poi abbiamo ottenuto dei finanziamenti, prima dalla regione Emilia-Romagna attraverso il bando Spinner e poi dalla regione Lombardia attraverso Fil Lombarda con il loro fondo SID per idee innovative. È M2Tech di Pisa, vincitore del premio Computer Gross, progetta, produce e commercializza sistemi audio per la riproduzione della musica digitale ad alta risoluzione. La startup ha ideato Joplin, un dispositivo per archiviare su computer il contenuto di supporti musicali analogici tipo LP, nastri, dischi, trasmissioni radiofoniche, riprese dal vivo, alla massima qualità possibile, estremamente più elevata di quella del CD. Fernando Manunta l'ha ideata insieme a Nadia Marino, compagna di lavoro e di vita. L'idea originale alla base della spinta che ci ha portato a fondare l'azienda era quella di dare agli appassionati di musica la possibilità di accedere ad alta qualità alle nuove sorgenti musicali, cioè soprattutto i file musicali scaricati da internet, ovviamente a pagamento. Ecco, lo sviluppo invece di questa idea è stato proprio il prodotto che avete presentato a SMAU, il Joplin 384/32 ADC. A che cosa serve? Il Joplin è un apparecchio che permette di trasferire in digitale sul computer il contenuto di sorgenti analogiche come per esempio il giradischi. In passato la cosa era fattibile usando semplicemente l'ingresso del computer, ma con una qualità molto ridotta. Questo oggetto permette di farlo con una qualità molto elevata e soprattutto tiene conto delle differenze tra i dischi che sono stati pubblicati dall'origine del disco, quindi dal 25, dai primi 78 giri, fino addirittura agli LP moderni. Ma questa idea che ovviamente avete realizzato ha avuto delle persone che hanno creduto nella vostra svolta imprenditoriale con soldi, capitali, oppure i soldi e gli aiuti li avete trovati in voi stessi? Fermo restando che l'inizio è stato in perfetta autonomia, devo dire che hanno creduto in noi prima di tutto il polo tecnologico di Navacchio, dove l'azienda è stata incubata per 3 anni, dal 2009 al 2000, pochi mesi fa, praticamente al maggio scorso. L'aiuto del polo è stato assolutamente fondamentale e determinante, perché ci ha aiutato non solo a livello logistico, fornendoci una sede con tutti i servizi, ma anche mettendoci in contatto con la realtà dei finanziatori, dei business angels e così via, e soprattutto aiutandoci ad acquisire una mentalità imprenditoriale di cui noi all'inizio eravamo totalmente sprovvisti. Mayan RMVD di Roma, vincitore del premio Portolano Cavallaro, è una startup che attraverso il laboratorio Mente in Movimento Italy opera nel campo della ricerca finalizzata all'immissione di prodotti e servizi innovativi sul mercato mondiale. La startup ha ideato Leonardo, il primo linguaggio di programmazione che permette di sviluppare qualsiasi tipologia di software attraverso il linguaggio umano. Marco Menichelli spiega la missione della startup. Leonardo ci è venuto in mente per un caso fortuito, perché noi avevamo molte idee di applicazione, nuovi software, e avevamo visto che le nostre finanze non bastavano a creare quel tipo di applicazioni, e quindi abbiamo pensato: ma perché non investire questi soldi per fare un linguaggio che noi riusciamo a capire, perché noi non siamo sviluppatori, noi siamo ideatori. Com'è che avete fatto a dare una svolta imprenditoriale a questa idea, cioè a realizzarla dalla A alla Z? Siamo nati in piena crisi e quindi abbiamo dovuto organizzarci in tal senso. Abbiamo strutturato un business model che ci permetta di lavorare per centro di costo, tenendo conto solo marginalmente del budget, ponendo sempre come disponibilità iniziale prossima allo zero. Quello che voi avete messo in piedi è un incubatore di altre idee. Possono aderire al vostro incubatore tante imprese, le più innovative, anche dei professionisti. Come? Allora, in una prima fase siamo stati noi a proporci, quindi a cercare noi professionisti ed imprese che oggi fanno parte del laboratorio di Mente in Movimento e cooperano con noi su Leonardo, ma anche su altri progetti. Allo SMAU invece abbiamo avuto modo di incontrare le persone che sono venute a trovarci proprio per proporci di collaborare. Chiunque abbia un'idea innovativa o ha un prodotto che vuole lanciare e che si incastra con i nostri progetti, noi troveremo il modo sicuramente di collaborare. Visto che siamo abituati a partire da un budget prossimo allo zero, sicuramente se l'idea è valida riusciremo a fare qualcosa insieme.